Progetto che arriva a compimento dopo lunghi mesi di lavoro, di partecipazione da parte dell'AICS, che gestisce lo Sferisterio, del Liceo Artistico Arcangeli, il sostegno dell'amministrazione e diversi sponsor. Finalmente questo spazio, che è uno spazio popolare, storico di Bologna per lo sport, il secondo impianto del centro storico, abbiamo una riqualificazione fatta con i ragazzi, con i murales, queste immagini legate allo sport bolognese, non solo calcio ma tutti gli sport, dalla box, basket, che si praticano in questo impianto. Ma ci sono altri progetti per il futuro? Parlava di un concorso internazionale. Sì, noi nelle prossime settimane stiamo concordando di far uscire, appunto, insieme alla sovrintendenza, un concorso internazionale di architettura per la zona della Montagnola attorno alla stazione e dal lato, appunto, di Via del Pallone, dove c'è anche lo Sferisterio. Quindi cerchiamo progetti per riqualificare l'intera area e anche delle idee su come utilizzare meglio questi spazi, perché è vero che bisogna intervenire nel breve sull'ordine pubblico, e lo stiamo facendo insieme alla prefettura e alla questura ogni giorno in Montagnola, ma bisogna anche pensare degli investimenti, degli interventi per cambiare un volto che in questo momento è un po' incrinato della nostra città. Io penso ad esempio che sia stato un errore nel passato togliere gli spazi di attività sportive nel parco della Montagnola. Abbiamo bisogno di presidi, abbiamo bisogno di attività per i giovani e per le famiglie, culturali ma anche sportivi. Insomma, vorremmo lavorare anche su questo. Sicuramente la Montagnola sarà protagonista nell'estate. Dobbiamo fare anche il nuovo bando per la gestione del parco, quindi cercheremo anche un progetto gestionale. L'idea è di riprogettare gli spazi per una fruizione culturale e sportiva di tutta l'area, sia in chiave definitiva sia in chiave temporanea. Abbiamo sperimentato la finale di Not in My House di street basket la scorsa estate in Piazza Ottagosto. Anche soluzioni come quelle possono essere utili.